Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il neo ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, garantisce al presidente della regione Federica una convocazione a breve per la vertenza Wärtsilä, preceduta da incontri bilaterali sul futuro del sito. Il governatore aveva scritto ieri sollecitando la riapertura del tavolo ministeriale. In visita a Monfalcone, l'amministratore delegato di Fincantieri Folgero conferma il reclutamento di lavoratori per il prossimo gennaio. Alla Burgo di Duino prolungato lo stop produttivo. Operazione di polizia internazionale partita da un'indagine della procura di Pordenone contro le truffe. Risparmiatori ingannati con la prospettiva di facili guadagni attraverso il trading online. Secondo le conclusioni della Commissione Antimafia, la versione di Angelo Rizzo sulla scomparsa della giovane sanvitese Rossella Cozzarin sono attendibili. A suo parere la ragazza era stata rapita in Cadore, trasportata in Umbria, seviziata e uccisa, ma la magistratura di Perugia non aveva ravvisato elementi tali da far riaprire l'indagine. Approvata ieri sera in Consiglio regionale la manovra autunnale, voto a favore della maggioranza che sostiene la giunta Fedriga, contrarie tutte le opposizioni. Tanti furti senza effrazione nell'Isontino, le autorità di polizia invitano i cittadini a non lasciare le finestre di casa aperte. Prende il via al centro congressi del Porto Vecchio di Trieste, la fiera internazionale del caffè. A Gemona si impara a pilotare i droni, uno strumento utile nelle ricerche dei dispersi o per rilievi sul territorio. Si terrà a Trieste la cerimonia inaugurale del Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea del 2023, presentata la mascotte alla quale è stato dato il nome dell'alpinista Julius Kugi. 7:19 minuti e 45 secondi, buona giornata da Daniele Lettige e Paolo Roncoletta. Anzitutto uno sguardo al tempo, cielo in prevalenza sereno sulla regione con qualche foschia locale sulla bassa pianura. Le temperature registrate alle 7, a Trieste abbiamo 14 gradi e 3 decimi, a Gorizia poco meno di 11 gradi, poco più di 11 gradi a Udine, 10 e mezzo a Pordenone, 12 gradi a Tolmezzo, 9 gradi e mezzo a Forni di Sopra, 10 gradi sul Monte Lussari, 5 gradi a Sappada, a Tarvisio 6 gradi e mezzo. Infine la costa, 14 gradi e mezzo a Lignano e a Grado. Ed ecco le previsioni per oggi. Cielo in genere sereno su tutta la regione, con possibili foschie e qualche banco di nebbia sulle aree pianeggianti, di primo mattino e alla sera. Ho sentito il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga per comunicargli che è nostra intenzione convocare a breve il tavolo di crisi sulla vertenza Wärtsilä. Svolgeremo prima alcuni incontri bilaterali sul futuro del sito con l'obiettivo di favorire un confronto serio e responsabile tra le parti coinvolte, premessa necessaria per individuare le soluzioni possibili, lo ha affermato ieri sera in una nota il neo ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Si tratta di una risposta a stretto giro alla lettera urgente inviata ieri al ministro da Fedriga, nella quale il presidente della regione chiedeva appunto di riattivare con urgenza il tavolo ministeriale sulla situazione in cui versa lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra, per avviare una discussione che abbia ad oggetto la continuità produttiva e occupazionale. Con questo primo atto al ministro, aveva spiegato Fedriga, intendiamo focalizzare l'attenzione su uno dei primi problemi da affrontare per il nostro territorio, ma anche ribadire a Roma che la battaglia per la difesa dello stabilimento Wärtsilä rientra in una visione di filiera strategica che riguarda tutto il paese. La lettera di Fedriga seguiva di 24 ore il primo confronto tra i sindacati e il nuovo amministratore delegato di Wärtsilä Italia, Michele Cafagna, un incontro nel quale hanno reso noto in un comunicato i rappresentanti di FIOM, FIM e WILM, l'azienda ha confermato l'intenzione di dismettere la produzione dello stabilimento triestino, anticipando la disponibilità, condizionata alla consegna dei motori, a pianificare transitoriamente nuove commesse di produzione. Da parte loro, i sindacati respingono qualunque ipotesi di chiusura, rivendicando la continuità produttiva del sito di Bagnoli e l'immissione immediata in produzione di nuove commesse di lavoro e dichiarandosi disponibili a proseguire il confronto con i vertici aziendali. Il nuovo amministratore delegato di Fincantieri Gian Roberto Folgero ha avuto un incontro ufficiale con l'amministrazione comunale di Monfalcone guidata dalla sindaca Cisint. Nel corso del colloquio si è parlato del rapporto fra la grande industria cantieristica e il tessuto sociale monfalconese. Folgero ha sottolineato l'importanza che lo stabilimento monfalconese riveste per l'intero gruppo e ha confermato per il gennaio il reclutamento di manodopera specializzata da inserire nella produzione. Sentiamolo in questa intervista. Fincantieri più forte se il territorio è con Fincantieri? Ma non c'è dubbio, un'azienda che vive di territorio e vive di occupazione locale il più possibile, vive di filiera Friuli Venezia Giulia, non c'è dubbio. Con Falcone qui si fanno le navi più belle e quindi in qualche modo potremmo essere un modello anche per gli altri cantieri d'Italia e per le altre aziende. Monfalcone già oggi è il cantiere che in Fincantieri è considerato il cantiere più moderno, più produttivo, quindi è il fiore all'occhiello dove portiamo i clienti quando vogliamo far vedere che differenza c'è tra una nave italiana, una nave francese e una nave tedesca. Come essere modello? Essere modello è una bella responsabilità, perché vuol dire che devi essere modello nelle cose che funzionano e devi essere poi coraggioso sulle cose che puoi migliorare. I lavoratori di Wärtsilä sono qualificati e potrebbero essere ben accolti in Fincantieri? Wärtsilä è una questione dolorosa, non vorrei commentarla perché sarei banale e retorico. Diciamo che seguiamo la vicenda da vicino, quindi guardiamo con una grandissima serietà industriale questo problema che non può che preoccuparci. I suoi lavoratori sono ben accolti in caso in Fincantieri? Io sono convinto che le persone qualificate in questo paese sono sempre utili e per definizione non facciamo altro che dire che mancano persone qualificate, quindi la seguo, in questo senso la seguo. Monfalcone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà prolungato fino al 6 novembre il fermo produttivo della cartiera Burgo di Duino. La notizia è emersa nel contro dell'incontro tra l'azienda e i sindacati. Per il periodo di chiusura verrà utilizzata la cassa integrazione ordinaria. Il programma di riavvio dell'impianto verrà reso noto in un secondo momento. 7:24 minuti e 25 secondi, passiamo alla cronaca. Truffe milionarie a danni di cittadini che, contattati tramite call center, hanno affidato il loro denaro a presunti investitori specializzati nel trading online. Denaro ovviamente fatto sparire. I particolari dell'indagine sono stati resi noti in una conferenza stampa avvenuta in Albania. Importante operazione di polizia tra Italia e Albania, conclusa con 3 arresti nei confronti di altrettanti cittadini albanesi ai vertici di una struttura criminale. Posti sotto sequestro, sempre nel paese balcanico, 2 call center da dove partivano telefonate truffaldine e in Italia provvedimento analogo per il server che serviva ad offuscare le tracce informatiche dei truffatori. Si promettevano facili guadagni tramite la proposta di false opportunità di training online in materia finanziaria. L'operazione, denominata Dream Earnings, è stata coordinata dalla procura di Pordenone in collaborazione con la polizia di Tirana e scattata a seguito di una denuncia pervenuta alla polizia postale di Pordenone. Il gruppo criminale era in possesso di oltre 90.000 contatti telefonici di cittadini italiani e aveva effettuato già 42.000 telefonate da call center per proporre false occasioni di investimento. Gli investigatori della squadra mobile di Pordenone e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia hanno effettuato a Tirana, assieme all'unità crimini informatici della Polizia albanese, 5 perquisizioni nei confronti di cittadini albanesi arrestati. Si stima che l'organizzazione abbia truffato diverse centinaia di cittadini italiani residenti in tutto il territorio nazionale, compreso il Friuli Venezia Giulia, per un ammontare superiore ai 3 milioni di euro, anche se è probabile che le somme sottratte siano molto più consistenti. Oltre 42.000 intercettazioni telefoniche effettuate dagli investigatori italiani hanno permesso di ricostruire il modus operandi della banda. Pordenone, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Grazie a un protocollo di intesa che sarà siglato questa mattina, aprirà a Pordenone, nella sede dell'Associazione Nazionale Finanzieri, uno sportello antitruffe frutto della collaborazione fra Guardia di Finanza e Associazione Consumatori Attivi. Alla firma del protocollo interverranno anche l'assessora regionale alle finanze Barbara Zilli e il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. Si torna a parlare della misteriosa scomparsa di Rossella Corazzin, la 17enne di San Vito al Tagliamento, sparita durante una vacanza a Thai di Cadore nell'estate del 1975. Non ci sono elementi nuovi, ma nelle conclusioni della Commissione Antimafia viene ribadita l'attendibilità della tesi sostenuta da Angelo Izzo, condannato per il massacro del Circeo. Secondo Izzo, la ragazza sarebbe stata rapita, trasferita in Umbria sulle rive del lago Trasimeno, seviziata e uccisa secondo un rito esoterico. I fatti sarebbero avvenuti nella villa di proprietà del medico Francesco Narducci, morto in circostanze misteriose nel 1985. Per la commissione, la descrizione fornita da Izzo è dettagliata e dimostra con ragionevole probabilità egli si era recato effettivamente nella villa di Narducci. Secondo la magistratura di Perugia, invece, dalle dichiarazioni di Izzo e dai successivi riscontri, non erano emersi elementi tali da far riaprire l'inchiesta sulla scomparsa della Corazzin. Passiamo ora alla politica. Approvato alle 20 di ieri sera in Consiglio regionale l'assestamento autunnale di bilancio. A favore il centrodestra, contrarie tutte le opposizioni, centrosinistra, Movimento 5 Stelle e Patto per l'Autonomia. Oggi i lavori riprenderanno con altri punti all'ordine del giorno, tra i quali il disegno di legge sulla disabilità e il progetto di legge nazionale sull'immigrazione. Resta ora solo la legge di bilancio di fine anno per l'ultimo grande intervento economico di rilievo di questa legislatura, mentre va in archivio la discussione sulla manovra autunnale. Tra gli emendamenti di giunta di cui più si è parlato in aula, uno riguarda il prestito di 4,2 milioni per l'azienda per i servizi alla persona Daniele Moro di Codroipo, in difficoltà finanziaria e commissariata. 15 milioni andranno invece alla Società Regionale Informatica Ensiel per un progetto sulla sanità. Di questo assestamento rimarrà in particolare il maxi accantonamento di 100 milioni che serviranno ad abbattere i costi per l'installazione di pannelli fotovoltaici per prime, seconde case e condomini. Una misura fortemente voluta dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, che spiega perché la norma sarà scritta solo a inizio 2023, anche se si punta a renderla retroattiva da novembre. Una norma che verrà scritta all'inizio del prossimo anno proprio per non sovrapporci alle nuove scelte che il governo farà in legge di bilancio, altrimenti avremo rischiato di sprecare risorse regionali e non renderle aggiuntive a quelle nazionali ma alternative, quindi penalizzare i nostri cittadini. Nell'opposizione si ritiene che in questo contesto di caro energia non si sia fatto abbastanza per le microimprese e per le famiglie in maggiore difficoltà economica. Cristian Sergo, Movimento 5 Stelle. Ci sono tanti annunci, però poi di fatto le cose concrete, anche per quelle che sono le emergenze effettive dei nostri cittadini, non ci sono. Non c'è nessun taglio delle tasse, che sarebbe l'unica cosa che potrebbe dare vero sollievo a chi non arriva a fine mese. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono due i candidati per la segreteria regionale del PD, Chiara D'Agiau e Renzo Riva. L'assemblea si terrà sabato prossimo, i documenti programmatici dei candidati sono disponibili sul sito internet del partito. 103 i componenti chiamati ad esprimersi, le operazioni di voto inizieranno subito dopo gli interventi dei candidati. Pesante carenza di organico tra i medici, anestesisti e rianimatori dell'ospedale di Udine, ma mancano anche i radiologi e ciò comporta una riduzione delle prestazioni erogate. All'ospedale di Udine di medici, anestesisti e rianimatori ne mancano ormai 18 su un organico previsto di 80 unità, lo segnala Aroi EMAC, l'associazione di categoria, che parla di condizioni lavorative insostenibili per la carenza di personale e minaccia lo stop degli straordinari da dicembre. In ballo ci sono anche le ore extra già lavorate, che ancora non sono state pagate a fronte di risorse che appaiono insufficienti. Non va meglio radiologia, dove per le stesse ragioni nell'ultimo anno e mezzo si sono licenziati in 7, rende noto il sindacato dell'area radiologica, che evidenzia come la mancanza di personale stia provocando una drastica riduzione delle prestazioni erogate in tutta la regione. Chiusa 3 volte a settimana la radiologia del Gervasutta e meno ecografie negli ospedali di Udine e San Daniele, fa sapere il sindacato. Soffrono anche l'azienda sanitaria pordenonese e la Giuliano Isontina. Il problema dei turni massacranti e della carenza di personale riguarda ormai l'intero comparto sanità, a cominciare dai reparti di emergenza urgenza, rincarano sindacati e ordini professionali che parlano di situazione molto pesante. In collegamento costante coi vertici della sanità regionale cercano soluzioni concrete. Preoccupata per la tenuta del sistema, la CISL Funzione Pubblica ricorda che al gran numero di dimissioni e ai pensionamenti si sommano le assenze per Covid e le sospensioni dei Novax e che a mancare non sono solo medici e infermieri, ma anche altre figure professionali. Il personale diminuisce soprattutto nelle prime linee e non si riesce a rimpiazzarlo perché quelle professioni sanitarie sono sempre meno attrattive e per chi resta il lavoro aumenta, ma solo per mantenere quello che c'è, sottolinea ancora CISL FP, che chiede correttivi urgenti e il giusto riconoscimento per chi è chiamato a fare turni in più. Diversamente, avverte il sindacato, non resterà che il taglio dei servizi. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Secondo la CGIL Scuola ci sono alcuni istituti che a poco meno di 2 mesi dall'inizio delle lezioni non hanno ancora un orario definitivo. Adriano Zonta sostiene che il sistema online ha funzionato per le nomine in ruolo ma non per le supplenze annuali. Con il sistema in presenza, come si svolgevano precedentemente le nomine, avendo definiti i posti da coprire, le operazioni di nomina venivano fatte in modo chiaro e trasparente, offrendo maggiori possibilità di scelta al personale, ma anche, e non è da poco, le operazioni si concludevano nel giro di pochi giorni, ha dichiarato Zonta, secondo il quale questa situazione ricade sulle spalle dei dirigenti. Eppure le scuole hanno ricevuto molte risorse dal PNRR, peccato che non siano utilizzabili per incrementare gli organici, conclude Zonta. Erano almeno 500 i partecipanti alla Marcia della Pace promossa dalla Diocesi di Concordia Pordenone. Sono intervenuti il prefetto Lione, rappresentanti di Questura, Guardia di Finanza e Carabinieri, rappresentanze delle amministrazioni di Pordenone e una decina di comuni della destra Tagliamento. Come fronteggiare l'escalation di furti nell'Isontino? Il prefetto Ricciardi, nell'ambito del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, ne ha parlato anche con i rappresentanti delle amministrazioni comunali. Sono più di 50 i furti messi a segno nell'Isontino nelle ultime 3 settimane. 15 a Romans, 11 a Grado, 9 a Mariano del Friuli, 6 a Medea, 5 a Mossa, poi Capriva, San Lorenzo, Moraro, Fogliano Redipuglia, in cui è stata attenzionata la frazione di Polazzo, ed anche alcuni quartieri periferici di Gorizia. Il ritmo operativo dei malviventi è molto veloce, nei loro raid riescono ad effettuare anche 10 tentativi ogni ora, ovviamente di notte. Il dato più impressionante però è che il 70% degli episodi è avvenuto senza effrazione o scasso, e questo significa che i proprietari delle abitazioni hanno lasciato finestre aperte o accostate, oppure porte con le chiavi inserite o nelle vicinanze in punti prevedibili. Sulle finestre chiuse invece l'intervento ladresco è il classico foro con il trapano in prossimità della maniglia. Dalle forze dell'ordine una capillare attenzione al territorio. Il questore di Gorizia Paolo Gropuzzo. Equipaggi sia in borghese sia in divisa, su cui ci siamo suddivisi quadranti e territorio. Seconda cosa, un appello alla popolazione di aiutare noi ad aiutare loro, perché in moltissimi di questi furti è stata l'estrema facilità di poter penetrare in un'abitazione privata perché c'è una finestra aperta, perché non ci sono giù le tapparelle, perché non ci sono chiuse le persiane. I tempi sono cambiati, bisogna cambiare anche le nostre abitudini e segnalarci qualsiasi cosa, anche presenze anomale, anche una macchina parcheggiata da troppo tempo da qualche parte. E i ladri agiscono anche se le persone sono in casa mentre dormono o guardano la TV. Il prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi. È fondamentale che i cittadini segnalino le situazioni sospette, ma soprattutto che non decidano di intervenire personalmente e direttamente, perché questo potrebbe, da un lato, creare intralcio alle attività di polizia investigative e di intervento, ma addirittura mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone stesse. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Un cinquantenne incensurato è stato sottoposto a misure restrittive della libertà per aver tentato di rapinare 2 persone nei pressi di un distributore di carburante a Pravis Domini. L'uomo aveva il volto in parte mascherato ed era armato con una pistola, rivelatasi poi una scacciacani, con la quale ha pure esploso un colpo contro uno dei 2 rapinati. I carabinieri lo hanno rintracciato, sequestrando l'arma, è stato dapprima posto agli arresti domiciliari e dopo l'udienza di convalida liberato con obbligo di dimora e divieto di allontanamento in orario notturno dal comune di residenza. Parte oggi al Centro Congressi del Porto Vecchio la 10ª edizione di Trieste Express Expo, il salone internazionale del caffè italiano dedicato ai professionisti del settore. Una 3 giorni di esposizioni, degustazioni e confronti tra delegazioni in arrivo da tutto il mondo, organizzata dalla Camera di Commercio Venezia Giulia attraverso la sua società Aries. Abbiamo chiesto alla direttrice Patrizia Andolfatto di presentarci l'evento. Gli espositori saranno 160, provengono da Italia, Tanzania, Spagna, Slovenia, Germania, Malta, Etiopia, Corea del Sud, Grecia, Belgio, Svizzera, Turchia e Brasile. Ci saranno 160 stand distribuiti tra 8.000 metri quadrati del Convention Center. Perché è importante questo festival? Trieste storicamente è molto importante perché è sempre stato il porto principale verso tutti i paesi per il caffè. La Camera di Commercio che organizza questa manifestazione è proprio il simbolo di questi scambi commerciali. Il programma prevede numerosi eventi in questi 3 giorni, ci può dare un assaggio di quali sono quelli più importanti? Allora, sui 3 giorni ci sono degli appuntamenti che si ripeteranno, come i campionati dei baristi, l'Eva Contest con le macchine da caffè della San Marco, le degustazioni guidate a cura di alcune torrefazioni, momenti formativi chiamati Training Pills a cura dell'Università del Caffè della Illy, alcuni speech a cura di Coffee Today, la rivista specializzata nel mondo del caffè. Poi ci saranno ovviamente dei momenti importanti come il convegno inaugurale, che tratterà tematiche molto attuali come la sostenibilità e l'aumento dei costi dell'energia energie, delle materie prime. Ci sarà questo momento dedicato al Brasile, per la prima volta c'è la presenza dell'ambasciata del Brasile con uno stand dedicato e con una mostra del Museo del Caffè di Santos. Il festival è aperto solo agli operatori, quindi non è aperto al pubblico, ma in che modo interagisce e si apre alla città? Abbiamo organizzato ovviamente una mostra che sarà visitabile presso la Camera di Commercio Trieste Espresso Photo Days sul tema il caffè in tutte le sue forme, dalla raccolta fino alla tazzina. I droni sono sempre più utilizzati per la ricerca di persone scomparse, ma anche in agricoltura, per rilievi. A Gemona c'è una scuola dove si impara a pilotarli. Giù, su, torna su. Ok? Benissimo. E questo è il primo comando, d'accordo? Salita e discesa. A scuola di droni. Gli allievi sono 80 studenti delle scuole medie del Medio Alto Friuli. Tra i professori, con la pettorina gialla, ci sono ragazzi di poco più grandi. Sono allievi delle superiori all'Istituto Magrini Marchetti di Gemona. Avere a che fare con dei ragazzi più piccoli ti insegna anche a dover imparare a spiegare le cose in maniera molto più facile, in modo che anche loro possano capirle. Divisi in sei gruppi, si esercitano intorno al campo sportivo di Magnano in Riviera, in un'area messa a disposizione dal comune. La dimestichezza col joystick, allenata anche dai videogiochi, viene volando. Andrea Di Bernardo, geometra. Grazie comunque al cellulare riesce a vedere quello che vede il drone ed è abbastanza semplice da pilotare. Cioè, è abbastanza semplice. No, è più difficile di quanto sembra. L'atterraggio, sì, è la parte più difficile. Non servono solo a fare riprese dall'alto. I droni sono utilizzati in agricoltura per la ricerca di persone scomparse e sono diventati strumento di lavoro per i geometri, tanto che l'iniziativa ha il patrocinio dell'Ordine di Udine. Marco Tommasi, dirigente scolastico del Magrini Marchetti di Gemona. Lo utilizzano come lo utilizzano veramente i geometri, quindi per rilievo dei terreni, per monitoraggio dei terreni, ma anche per monitoraggio delle frane e quindi per tutto quello che serve per monitorare l'ambiente. Alberto Patat, consigliere del Collegio dei Geometri di Udine. Questi che saranno dei giovani colleghi a breve, vanno sostenuti e noi li sosteniamo per questo. Sì, è un mondo che mi incuriosisce abbastanza perché riesci a fare molte cose, diciamo. Pensi che è una cosa che poi vorrei fare anche da grande? Sì. Magnano in Riviera, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un anno di studi al convitto Paolo Diacono di Cividale è quello che stanno vivendo grazie alla borsa di studio del progetto Studiare in Friuli destinato ai discendenti di friulani nati all'estero 14 ragazzi argentini. Per celebrare un progetto che la scorsa estate ha festeggiato i suoi primi 20 anni, questa mattina una delegazione istituzionale proveniente dal paese sudamericano farà visita ai giovani nella sede del convitto assieme ai rappresentanti delle istituzioni partner del progetto: la Regione, il Comune di Cividale, la Fondazione Friuli e Civibank, il convitto nazionale e l'ente Friuli nel mondo. L'IRES Friuli Venezia Giulia presenta oggi online i corsi IFTS, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, che mirano a formare nuovi tecnici altamente specializzati in ambito ICT e nell'amministrazione economica, finanziaria e aziendale. I corsi completamente gratuiti si rivolgono sia a persone disoccupate che occupate in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma di istruzione e formazione professionale, che intendono inserirsi o riposizionarsi nel mondo del lavoro, anche grazie al rafforzamento e sviluppo di specifiche competenze tecnico-professionali. La presentazione si può seguire dalle 16.30 sul sito www.iresfvg.org. Al via gli incontri promossi dall'amministrazione comunale di Tavagnacco per presentare il piano della mobilità ciclabile Biciplan, che ha la funzione di identificare una rete di itinerari ciclabili che rispondono ai requisiti di sicurezza, continuità e connessione tra servizi, residenze e luoghi di lavoro. Il primo incontro si svolgerà oggi alle 18.30 al centro ricreativo di Adegliacco. Seguiranno altri 4 appuntamenti dall'8 al 24 novembre. Un viaggio alle origini della pandemia e uno sguardo, condito da aneddoti autobiografici, ai rischi di una possibile nuova pandemia. È quello raccontato dall'infettivologo Matteo Bassetti nel suo libro Il mondo e dei microbi, che presenterà questa sera a Gorizia nell'ambito del festival Alienazioni, appuntamento alle 20.45 al Teatro Verdi. La Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche dedica 2 appuntamenti alla chirurgia bariatrica all'Obesity Unit dell'ospedale di Gorizia. Un incontro informativo questa sera alle 18 e domani dalle 9 alle 12 una valutazione specialistica gratuita fino ad esaurimento posti. Alessandro Balani, direttore del Dipartimento Chirurgico di Gorizia e Monfalcone, ci ha spiegato il perché dell'iniziativa. La chirurgia bariatrica è la chirurgia dell'obesità. In poche parole è un trattamento chirurgico che viene preso in considerazione quando ci sono determinati parametri che devono essere rispettati, cioè non tutti i pazienti sono pazienti candidati alla chirurgia, ma ci sono dei criteri selettivi. Ci può dare dei dati sull'obesità nella nostra regione, su quante persone sono colpite da questa malattia? Circa il 10% della nostra regione è dichiaratamente obeso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che potenzialmente potrebbero esserci 120.000 persone candidate a un trattamento per obesità. Ovviamente non tutti sono candidati a chirurgia. Perché? Perché la chirurgia viene presa in considerazione dopo un'analisi multidisciplinare che prevede un percorso che si articola in diverse tappe, con consulenze da parte dello psicologo, della dietista, con l'esecuzione di indagini mirate, con una visita del nostro internista, del nutrizionista, per cui alla fine di questo percorso si decide se il paziente è candidato a chirurgia. C'è da dire anche che potenzialmente ci sono tanti pazienti da operare in più rispetto a quelli che vengono operati. Vengono operati grosso modo il 2-3% di questi obesi e chiaramente non tutti candidabili a chirurgia, ma sicuramente con una maggiore informazione, una maggiore conoscenza, il numero salirebbe in maniera significativa. Che cosa prevede l'incontro di oggi? L'incontro si articola attraverso due fasi, cioè c'è un pomeriggio in cui ci sarà un incontro con la popolazione, in cui verrà presentato quello che avviene durante il meeting multidisciplinare e come funziona il team. Una sorta di informazione alla popolazione su quanto noi facciamo, su come lo facciamo, di dove lo facciamo. Il giorno successivo invece ci saranno gli ambulatori aperti, spiegheremo le indicazioni all'intervento chirurgico, cosa potenzialmente possiamo fare, cosa i pazienti possono avere da noi, insomma una sorta di incontro, come dire, informativo, più che una visita vera e propria. L'amianto continua a provocare morti anche nella nostra regione, in particolare a Monfalcone, dove questo materiale è stato usato per anni in cantieri e fabbriche. Di lotta all'amianto e sicurezza sui luoghi di lavoro parlerà questa sera il medico del lavoro Vito Totire, presidente dell'Associazione Esposti Amianto e Rischi per la Salute di Bologna, che proprio a Monfalcone interverrà ad un incontro di dibattito al Caffè Esperanto, inizio previsto alle 18. Oggi, in occasione della giornata mondiale della psoriasi, i medici dermatologi dell'ospedale maggiore di Trieste saranno a disposizione dei pazienti con delle visite di screening gratuite. Le visite saranno esclusivamente su prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili. Per prenotare occorre telefonare dalle 9 alle 15 al numero 345-7686-815. Lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet sarà ospite questa sera a Sacile per un evento speciale del Festival Mind dal titolo Lezioni di Sogni al Teatro Zancanaro alle 21.15. E dopo 3 anni di pausa ritorna a Tolmezzo da oggi l'appuntamento con Il Filo dei Sapori, la kermesse agroalimentare che celebra la montagna friulana. Che cosa racconta il volto urbano di Trieste? L'identità di una città singolare annunciata dai tetti da una folla di statue della mitologia greca. Di questo si occupa il volume di Paolo Possamai, Nettuno e Mercurio, il volto di Trieste nell'Ottocento tramite i simboli, che sarà presentato oggi a Gorizia, appuntamento alle 18 al Culturni Dom. La scorsa settimana a Trieste gli artisti Rais Bertotti e Antonio Giacomin hanno dato vita a un'installazione artistica in cui le onde cerebrali dei visitatori, elaborate da un algoritmo, diventavano dei video. Ora le immagini di quei video si potranno ammirare nella mostra Energie Primigenie, Mappe Cerebrali, dalle 17 alle 19 alla Double Room di Trieste fino a domenica 30. Un concerto con canzoni originali, rivisitazioni di classici da tutto il mondo e brani della tradizione cantato in 4 lingue, francese, portoghese, arabo, italiano e romanesco. E la colorata giostra poliglotta con cui Tosca aprirà questa sera la 15ª edizione del Festival Vocali, appuntamento per le 21 al Teatro Verdi di Maniago. La prima esecuzione assoluta in tempi moderni del Dixit Dominus, opera per soli, coro e orchestra di Baldassarre Galuppi, detto il Buranello, grande protagonista del barocco veneziano, aprirà questa sera la 31ª edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone. Protagonisti l'Orchestra San Marco, i cori Città di Pordenone, Spengenberg e Primovere e le voci soliste della soprano Natasha Treck, della mezzosoprano Francesca Gerbasi, del tenore Alberto Ambrogiani e del basso Francesco Basso, diretti da Davide Pittis. Inizio nel Duomo di San Marco alle 20.45. È dedicato alla figura di Colette Thomas, donna artista, testimone del Novecento, intellettuale francese e allieva di Antonin Artaud, lo spettacolo Voglio solo cercare di essere felice della compagnia fiorentina Schiller della Balanza, rappresentato stasera nell'ambito della 23ª edizione del Festival Spaesati Eventi sul tema delle migrazioni al Teatro Miela di Trieste, inizio alle 20.30. L'8 aprile 1994 venne ritrovato il corpo senza vita del cantante dei Nirvana, Kurt Cobain. Vicino al suo cadavere una lettera con il suo addio al mondo, che oggi chiunque può leggere cercandola su internet. Da questo parte Buddha, monologo scritto e interpretato da Davide Rossi in scena da stasera venerdì al Teatro dei Fabbri di Trieste, nell'ambito della rassegna di teatro contemporaneo Ai Fabbri 2. Sipario alle 20.30. Un viaggio nella Divina Commedia di Dante attraverso i canti più significativi del poema è quello che promette la lettura teatrale del regista e attore Massimiliano Finazzer Flori, che sarà accompagnato dal violinista Matteo Fedeli e dalle coreografie di danza contemporanea di Michela Lucenti, con i ballerini di Balletto Civile alle 18 nella chiesa parrocchiale Nostra Signora di Sion di Trieste. All'obiettivo di affinare gli strumenti critici utili ad affrontare la trasformazione più radicale del nostro presente, cioè la rivoluzione digitale, la nona edizione del Festival Filosofico Mimesis, che comincia oggi a Udine e andrà avanti fino a sabato. Tra gli appuntamenti della prima giornata, alle 17 in Sala Iace, si parlerà del senso dello sport con Luca Grione e Flavio Tranquillo in dialogo con Umberto Sarcinelli. Alle 18 invece, nel Salone del Parlamento in Castello, Michel Bitbol, Stefano Davide Bettera e il neuroscienziato Franco Fabbro daranno vita ad un dialogo su come cambiare stato di coscienza. 7:48 minuti e 40 secondi, parliamo di sport, presentato a Trieste EIOF, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, che si svolgerà in Friuli Venezia Giulia il prossimo anno. La manifestazione avrà una mascotte alla quale è stato dato un nome illustre, quello di Julius Kugi, alpinista, scrittore, botanico, musicista, che ha legato il suo nome all'esplorazione delle Alpi Giulie. Sarà la Piazza Unità di Trieste ad ospitare la cerimonia di apertura di EIOF, il Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea, che si terrà dal 21 al 28 gennaio del 2023 sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Un evento che vedrà la partecipazione di oltre 1200 atleti dai 14 ai 18 anni provenienti da una cinquantina di paesi, che gareggeranno in 14 discipline sportive nelle 12 località sciistiche della nostra regione, dell'Austria e della Slovenia. Una scelta, quella di Trieste, tesa a rinsaldare un rapporto tra mare e montagna in un'ottica regionale. Tiziana Gibelli, assessore regionale allo sport. Trieste è una città di mare, ma ha un numero di sciatori che è superiore a quello di altre zone con pari abitanti della regione, perché ci sono molti sci club attivi e molti amanti degli sport invernali. Una manifestazione che valorizzerà lo sport giovanile e che sarà l'occasione per far conoscere il Friuli Venezia Giulia, ha sottolineato il presidente della regione Fedriga. Ospiteremo la delegazione ucraina e abbiamo scelto il nome di Kugi per la mascotte, prendendo spunto da Julius Kugi, il celebre alpinista che ha rappresentato la complessità del Friuli Venezia Giulia nell'incontro di culture e di popoli. EIOF 2023 si prepara dunque ad ospitare nei poli sciistici della regione non solo un evento a 360 gradi. Maurizio Dunhofer, presidente del comitato organizzatore di EIOF 2023. Questo evento io l'ho voluto chiamare Friuli Venezia Giulia, EIOF Friuli Venezia Giulia, di solito è una città candidata, questo è un patrimonio per la nostra regione, per il nostro sport e tutti si devono sentire coinvolti. Una manifestazione dove sono in calendario 109 competizioni, dallo sci alpino al nordico, dal freestyle all'hockey su ghiaccio. Tutti i giovani atleti che con molta probabilità saranno presenti nel 2026 alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Giorgio Brandolin, presidente del CONI del Friuli Venezia Giulia. Noi speriamo che tanti ragazzi di tutte le rappresentative che si cimenteranno tra 3 mesi nelle nostre montagne poterli vedere a Cortina e a Milano. Io mi auguro che tra questi ci sia qualche ragazza e qualche ragazzo friulano o giuliano. Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Calcio Udinese al lavoro questo pomeriggio per un allenamento in preparazione al match di domenica pomeriggio a Cremona, arbitro designato Irrati, ieri doppia seduta al mattino, preparazione in palestra ed esercizi tattici, nel pomeriggio ancora tattica e partite a campo ridotto. Inizia oggi per la Pallanuoto Trieste il secondo turno dell'Euro Cup che si disputa a Sebac in Serbia. La formazione alabardata, impegnata nel girone A, si troverà davanti da qui a domenica degli avversari di grande spessore. Si comincia questa sera alle 18 con la sfida ai montenegrini dello Jadran Erceg Novi. Seguirà domani il doppio impegno con i croati del VK Solaris alle 12 e con i padroni di casa del VK Sabac alle 20.30. Domenica alle 9.30 infine il confronto con i francesi del Paide. Le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale. La nostra rassegna stampa, Fedriga scrive al governo riaprire il tavolo Varzile, questo è il titolo principale di prima pagina del Piccolo di Trieste, sotto c'è la fotonotizia che ritrae la mascotte dei giochi EIOF, in taglio basso il richiamo ad un articolo riguardante un libro sulla principessa Sissi, poi i richiami sulla colonna di destra, la telecabina, la Lega Navale, spazi per tutti all'antica diga, il recruiting di Costa Crociere, non solo giovani, scrive il quotidiano triestino. Negli altri richiami il timore di un'escalation nucleare in Ucraina, la fiducia del governo Meloni, al Senato la questione delle navi che trasportano i migranti. Capocronaca di Trieste sulla conferenza dei servizi per la telecabina, al comune servirà un mese e mezzo per ottenere via libera dagli enti interessati. Titola sulla sanità l'edizione di Udine del Messaggero Veneto, gli anestesisti in ospedale non faremo straordinari, la protesta al via da dicembre. Una fotonotizia a centropagina è dedicata all'indagine sulla maxi truffa online, smantellata la banda albanese. Spazio anche a un'altra notizia di cronaca, nel Manzanese 9 case svaligiate in 2 notti, e un'altra foto più piccola della notizia della presentazione dei giochi invernali EIOF. All'interno un articolo informa che ci sono 4 parlamentari regionali in corsa per fare il sottosegretario, l'assicurazione del ministro pordenonese Ciriani, accordo in tempi brevi. La notizia sugli anestesisti apre anche le pagine della cronaca di Udine, nelle quali poi trova spazio una notizia sulla gestione dell'acquedotto. Tregua tra piccoli comuni e Udine, aggregazioni e multiutility provinciale. Cambiano i componenti della commissione per il controllo analogo di CAFC. Anche le pagine di Udine del Gazzettino dedicano il primo titolo all'inchiesta contro i truffatori albanesi. Una fotonotizia racconta poi il Giro d'Italia 2023 che nasce sulle pendici dell'Ussari, ieri il primo sopralluogo in vista della Corsa Rosa. Al centro un titolo sulla ICOP di Basiliano, tra le aziende migliori di tutta Italia per il benessere dei lavoratori. In basso due notizie di sport, il calcio con i 2000 tifosi che seguiranno l'Udinese in trasferta a Cremona e il basket con le due squadre friulane che si preparano all'esame della Fortitudo Bologna. All'interno un articolo racconta del nuovo asilo nella zona industriale udinese, ospiterà 25 bimbi e nascerà nell'area di Pavia di Udine. Il titolo di prima pagina del piccolo di Gorizia e Monfalcone riguarda la visita di Folgero, la campagna Fincantieri sui lavoratori del futuro. In taglio basso la città del gusto che avrà sede a Grado, nella palazzina dei Medici, tra i richiami della colonna di destra, più telecamere e illuminazioni fuori dal CARA di Gradisca. Capocronaca di Gorizia sulla riunione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico riguardanti i furti nelle abitazioni, troppi colpi senza effrazione, recita il titolo. Per la pagina di Monfalcone il capocronaca riguarda la visita della D di Fincantieri Folgero. Il titolo è Riportiamo gli operai italiani alla carpenteria e alle saldatrici. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto apre sull'inchiesta della squadra mobile, facili guadagni online, presa la banda delle truffe, centinaia di clienti su un lastrico. Un breve richiamo ritorna sulla notizia del giovane morto dopo essere stato investito in bicicletta a San Martino al Tagliamento, il dolore dei vicini, guidatore sotto shock. Le pagine della cronaca cittadina titolano invece sull'istruzione. Due scuole si candidano al primo liceo musicale, ma servono aule idonee. Quelle in uso non sono insonorizzate. Decisione della regione entro fine anno, in lizza il Grigoletti a Pordenone e le filandiere a San Vito al Tagliamento. Presa la banda dei truffatori albanesi è anche il titolo delle pagine pordenonesi del Gazzettino. Sono 1200 gli italiani caduti nella rete dei facili guadagni. A centropagina una fotonotizia sul ponte del Meduna. Fedriga promette altri finanziamenti. Spazio poi a un'altra notizia di cronaca. Ha bisogno di soldi, impiegato tenta di rapinare due uomini, arrestato un 52enne di Pravisdomini. In basso una notizia di calcio. Nero Verdi, c'è un attacco da reinventare. Nelle pagine interne sempre la vicenda degli anestesisti in fuga da Udine a Pordenone. Destra taglia più organizzata attrae anche i giovani specializzandi. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friuliano Ueo Favelin D, che parlerà di un progetto di Lega Coop FVG contro le violenze e le molestie sul lavoro. Alle 19.20 l'appuntamento con Anziani, anzi no. Oggi parleremo della bolletta, come la si legge, o meglio, come la si decifra. Proveremo a fare una vera e propria lezione di lettura della bolletta dell'energia. Alle 11.55 andrà in onda Nestato nel mercato. I programmi regionali tornano poi alle 13.30. 7.56 minuti e 20 secondi, termina l'edizione prima del giornale radio regionale, edizione del mattino, redatta e condotta da Daniele Letti e da Paolo Roncoletta, assistenza tecnica in regia di Walter Vidonis, in redazione ha collaborato Daniela Sossi. Appuntamento alle 11.10 minuti per l'edizione flash, alle 12.30 per quella meridiana. Grazie a voi che ci avete seguito, dopo la sigla ci sarà l'Onda Verde, buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.